Capitolo 15. Gli inglesi sopportano male i bolscevichi a casa propria. Quella britannica è rimasta la società più tradizionalista d'Europa, la più classista. Sai quanto amo la loro cultura, la loro letteratura, Shakespeare. Mia moglie è inglese. Me li ritrovo come avversari. È inevitabile. Geopolitica, amico mio. Geopolitica. Sono lontani i tempi in cui Maximovich Litvinov girava con un cappotto imbottito di banconote. Lontani i tempi di Londra e dell'esilio irlandese. E sono trascorsi 9 anni da quando è tornato in Inghilterra in veste di ambasciatore della neonata Repubblica dei Soviet, solo per essere arrestato e poi rimpatriato grazie a uno scambio di prigionieri politici. Gli occhialini minuscoli sono un orpello su quel viso largo, dalla fronte alta, che pare in grado di esprimere soltanto bonomia. Con gli anni Litvinov si è espanso e diventato più tarchiato, senza collo, ma non ha perso l'espressione intelligente che lo ha sempre contraddistinto e che si addice al vicecommissario del popolo agli affari esteri. Qualcuno suggerisce che lo abbiano messo sotto Cicerin per bilanciare la sua avversione per l'Occidente. «Assaggia, ti prego», dice Litvinov, versando un dito di whisky in 2 bicchieri di vetro spesso. «È scozzese, invecchiato senz'altro meglio di noi. L'ho avuto tramite i parenti di Ivi. Ci sono voluti 3 giorni per ottenere un appuntamento e il vecchio sodale ha fatto sapere che a malincuore potrà concedergli appena il tempo tra una riunione e l'altra, nella foresteria dove vive con la famiglia». Siedono in un salottino che funge da anticamera. Attraverso una porta proviene il rumore metallico di una macchina da scrivere. Le labbra strette di Litvinov davanti al whisky paiono quelle di un rospo che valuta il momento migliore per ingoiare la preda. 10 anni, dice scuotendo il capo in segno di incredulità. I suoi gesti sono tutto fuorché casuali, ma compiuti con la più assoluta noncuranza. L'avresti mai detto che saremmo durati tanto? Bogdanov rimane zitto. Tu no, riprende Litvinov, riscuotendosi da solo. Tu alla rivoluzione non hai mai dato molto credito. Sembra intenzionato a proseguire, ma Bogdanov lo anticipa. Quella che chiami rivoluzione, io lo chiamo comunismo di guerra. Ne siamo usciti con la NEP, il mercato regolato. E il socialismo dove sta? Litvinov sospira. Lo so. So che hai ragione e al tempo stesso hai torto. Questa rivoluzione è nata dalla guerra, ma c'è pure il retaggio dei secoli. Intinse le labbra nel whisky. Tu e io sbagliamo prospettiva. Siamo troppo eurocentrici, come tanti russi, che fin dai tempi di Pietro il Grande guardano a Occidente con il disagio dei parvenus in ritardo su tutto. Pietro il Grande, l'uomo sulla banconota da 500 rubli, il padre immaginario di Danny. «Conosci il colonnello Thomas Edward Lawrence?» prosegue Litvinov. «Sai, l'eroe di guerra. Ha detto che le classi dirigenti occidentali si preoccupano dell'avanzata del bolscevismo in Europa, dimenticando che la Russia è un paese per 2/3 asiatico». Sottolinea l'osservazione, battendo il dito sul tavolo. «Ecco, la geografia non è un'opinione, my old fellow. No, no. Lo dico a malincuore, ma Lawrence ha ragione. E ha ragione Stalin». Il nostro destino è a Oriente. Trotsky e Zinoviev sperano nelle classi operaie occidentali, corrotte dalla borghesia e dagli opportunisti. Stalin guarda alle steppe e alle montagne dell'Asia. È lì che abbiamo sempre conteso il primato ai britannici. E l'impero britannico è il nemico naturale della nostra rivoluzione. Il grande gioco non è finito, sono soltanto cambiati gli ideali. C'era da aspettarselo. Una presa di posizione a favore di Stalin per mettersi al sicuro dagli eventuali doppi fini dell'interlocutore. Se soltanto Litvinov sapesse quanto poco gliene importa. A giudicare da come è andata in Cina, dice Bogdanov per interrompere il monologo, viene da dare ragione a Pietro il Grande e agli altri parvenu. In Cina è stato un disastro, ammette Litvinov. Comunisti e nazionalisti insieme non poteva funzionare, però dovevamo provarci. Il momento della Cina verrà, vedrai. A ogni modo, non è quello il cuore del continente. Ah, già, l'Afghanistan, suggerisce Bogdanov, cogliendo l'allusione. Litvinov sogghigna. L'estate scorsa ho fatto regalare dei cavalli ad Amanullah Khan. Glieli ho fatti trovare proprio sulla Piazza Rossa. Io non capisco niente di cavalli, ma erano davvero due gran belle bestie. Lui è andato in estasi, eppure la moglie, la regina Soraya. L'avresti mai detto, amico mio, che avremmo ricevuto dei re al Cremlino? Avrei mai detto che ce ne saremmo vantati? Chiede Bogdanov con sarcasmo. Ancora un ghigno enigmatico. Geopolitica. Se controlliamo l'Afghanistan, controlliamo l'Asia. Quindi io leggo Shakespeare e sollazzo Amanullah. Gli inglesi facciano tutto il chiasso che vogliono. Bogdanov appoggia il bicchiere. Possono arrivare al dunque. È lì per fargli un nome, l'unico che ancora gli interessi. Leonid Volokh, te lo ricordi? Litvinov fissa assorto l'angolo in alto della parete. Volokh, un guizzo degli occhietti chiari dietro le lenti. Certo, la rapina di Tiflis. Ci rimase sotto, se non ricordo male. Batté l'indice sulla tempia. Non fosti tu a occuparti di lui? Bogdanov annuisce, aggiustandosi sulla piccola poltrona di pelle scura. L'ho perso di vista prima di rientrare in Russia. Sto cercando di scoprire che fine abbia fatto. Litvinov seguita a frugare la memoria, come se la reputasse un'impresa davvero importante. Non credo di averlo più incontrato, conclude, mentre sorseggia appena il liquore. Era con te in Italia? Sì, risponde Bogdanov, a Capri e a Bologna. Certo, mormora l'altro, ancora cogitabondo. Strana idea che ti è venuta di cercare un tizio che non vedi da allora. Sto aiutando una sua parente a rintracciarlo, ribatte Bogdanov. È una storia lunga e tu non hai il tempo di ascoltarla. Litvinov ridacchia. Hai ragione da vendere. Il tempo è quello che mi manca. C'è sempre mancato. Possiamo finire il whisky, però. Ce lo meritiamo, non è vero? Scruta il liquido ambrato attraverso il vetro. E se lo merita anche lui, che ha viaggiato fino a qui, da un'isola scozzese, per compiacere il nostro palato. Un altro sorso. Hai provato a chiedere a chi insegnava nella scuola? Con Liadov e Pokrovsky non sono più in buoni rapporti. Litvinov beve l'ultimo sorso di whisky e si appoggia alla poltrona. Pare soddisfatto di qualcosa. Pensavo piuttosto ad Alexandra Kollontai. Con lei che rapporti hai? Nessuno, risponde Bogdanov. È sempre all'estero. Allora ti consiglio di approfittarne prima che riparta, dice Litvinov serio. Si dà il caso che alloggi qui, nella foresteria del ministero, appena due rampe di scale sopra di noi. Il volto di Bogdanov tradisce la sorpresa. Da tempo Alessandra Kollontai viene tenuta lontana dalla Russia a fare l'ambasciatrice. Come oppositrice è troppo scomoda. Meglio issarla a mo' di bandiera e farla sventolare in alto, così in alto che nessuno possa raggiungerla. È stata la prima donna nella storia a ricoprire la carica di ministro. Se la rivoluzione ha avuto un'anima femminista, quella è stata incarnata da Alexandra Mikhailovna Kollontai. Saperla a pochi gradini di distanza fa uno strano effetto. Bogdanov osserva Litvinov consultare l'orologio da taschino, un vezzo che ha portato con sé da un'altra epoca. Si è fatto davvero tardi e io ti ho riempito di chiacchiere. Mi hanno fatto piacere le chiacchiere. Non è una frase di circostanza, ma la verità. Ricorda che tutti noi siamo dove ci ha portato la storia, dice Litvinov mentre lo accompagna alla porta. Cerca di essere prudente, my old fellow. I nervi sono scoperti. Indica le scale nel corridoio e aggiunge: secondo piano, prima porta a sinistra, poi si fa più vicino. Lo sai? Dice con un sorrisetto complice. Ogni volta che vado all'estero nascondo una banconota nella fodera della giacca. Per scaramanzia. Bogdanov si dirige verso le scale e senza darsi il tempo di esitare sale la rampa fino a un corridoio identico a quello di sotto. Prima porta a sinistra. Davanti all'uscio un militare di piantone. Bogdanov gli mostra i documenti e chiede della compagna Kollontai. Il soldato dapprima lo scruta con espressione vacua, poi bussa con le nocche e si scosta di mezzo passo. Bogdanov resta in attesa. Pochi secondi dopo si ritrova davanti Alexandra Kollontai. La visione lo paralizza. Sarà il contrasto tra le sopracciglia scure, spigolose, e gli occhi chiari, ancorché coronati di rughe. I solchi agli angoli della bocca, il viso incorniciato dai ricci ancora ribelli, benché ingrigiti, il rossetto scarlatto a cui l'età non l'ha spinta a rinunciare, tutto le dà un'aria da antica strega. Sono coetanei, figli della stessa epopea, eppure così diversi. «Bogdanov!» dice lei stupita. «Hai fatto un patto col diavolo? Sembri più giovane!» Ha sempre avuto questa capacità di mettere gli altri in imbarazzo con la propria schiettezza. Lo fa entrare nella stanza in disordine. Dietro una grossa macchina da scrivere con un foglio nel rullo, siede una giovane donna dall'aspetto scialbo. «Per favore, Irina!» dice la collontai. «Lasciatemi scambiare due chiacchiere in privato con questo vecchio amico!» La donna pare infastidita dalla richiesta. Solleva di peso la macchina da scrivere e la porta con sé, nella stanza accanto. Sul letto ci sono due valigie aperte, mezze piene di vestiti. Altri indumenti sono sparsi nella stanza. «Perdona il disordine!» «In arrivo o in partenza?» chiede Bogdanov. «Ultimamente fatico a distinguere!» Libera una sedia e lo fa accomodare, mentre lei siede sul bordo del letto. «Posso ordinare del tè, se lo gradisci?» Bogdanov declina l'offerta. Gli è bastato il whisky di Litvinov. «Mi rimandano in Norvegia», dice lei, indicando le valigie. «Non mi vogliono tra i piedi durante le celebrazioni». «E tu?» chiede, dopo un attimo di pausa. «So che dirigi un istituto per le trasfusioni del sangue». «Da un anno ormai», risponde lui, laconico. «Bene. In cosa posso esserti utile?» «Meglio andare dritti al punto». «Ricordi uno studente operaio della scuola di Bologna, di nome Leonid Volok?» Bogdanov osserva ancora Alessandra con lontai. Non ha perso l'aura con cui incantava gli uomini, facendoli innamorare di ciò che non potevano avere o facendoli fuggire davanti alla propria banalità, dopo che l'avevano avuto. «Lo ricordo, sì», risponde lei, infine. «Lo hai più rivisto dopo di allora o sai dove possa essere?» Alessandra con lontai scoppia a ridere di gusto, una risata cristallina da ragazza che coglie alla sprovvista. «Accidenti, Bogdanov. Con quello che sta succedendo, te ne vai in giro a cercare uno studente operaio finito chissà dove. Per un attimo ho pensato che l'opposizione ti avesse convinto a venirmi a chiedere una firma». Bogdanov ribatte sprezzante, innervosito da quella risata. «Figurati, ho fatto opposizione ben prima che si trattasse di una borghesissima lotta per il potere». Gli occhi grigi di Alessandra Collontai si incupiscono, celando la rabbia. «Dimenticavo che il compagno Bogdanov aveva già capito prima di tutti noi. 10 anni fa avremmo dovuto restare a guardare, mentre l'esercito si ammutinava, mentre gli operai scioperavano e prendevano il controllo delle fabbriche. Beh, oggi le donne dell'Unione Sovietica hanno diritto all'istruzione, possono votare ed essere elette, possono divorziare e abortire, percepiscono lo stesso salario degli uomini. Queste sono conquiste ottenute prendendo il potere, caro Bogdanov». Lui si aggiusta il nodo alla cravatta. Tutta colpa di Litvinov. Quell'incontro è un suo tiro mancino. Probabilmente è lì che sogghigna, al piano di sotto, all'idea di loro due che discutono. «Ti rifugi nell'unica causa che ti hanno lasciato», ribatte. «Non è una causa di poco conto, se permetti. Tu, invece, fornire sangue fresco ai vecchi burocrati del partito ti fa sentire in pace?» La domanda è cattiva, ma hanno più cose in comune di quante siano disposti ad ammettere. La donna che ha davanti ha attaccato il partito, ne ha denunciato la burocratizzazione a discapito dei sindacati, poi si è lasciata riportare all'ordine e spedire in giro per il mondo a fare la paladina delle donne. «Sminuire il mio lavoro non è molto originale, credimi», dice senza astio. Alessandra Collontai trae un gran respiro prima di rispondere. «Tu vuoi mescolare il sangue di tutti e pensi che questo ci renderà più uniti e più uguali. Ma sono le relazioni a tenere insieme la collettività, non il sangue. Sono i rapporti tra le persone, rapporti di classe e di genere». «Ti prego, sono le cose che ho sempre detto anch'io», la interrompe lui per rabbonirla, ma invece ottiene l'effetto opposto. «Pensi di cambiare il mondo educando i lavoratori. Sei un riformatore sociale, Bogdanov. Sei un Proudhon, un intellettuale che cerca di rendersi utile. Mi ricordi il mio primo marito? Ma questi 20 anni ci hanno insegnato che per cambiare il mondo devi cogliere l'occasione. Anche se non è il momento giusto, perché non è mai il momento giusto. E anche se il risultato che ottieni non è il meglio che ti aspettavi, lo devi difendere. Se non sei disposto a farlo, tanto vale che non ci provi nemmeno. Ho sempre pensato che costruire una nuova cultura fosse il modo migliore di difendere la rivoluzione. La storia è più impaziente di te, caro Bogdanov. Tacciono. Lui si fissa la punta delle scarpe prima di farle notare che non ha risposto alla sua domanda. Lo faccio subito, dice lei. Io e Volok ci frequentammo al tempo della scuola di Bologna. Era un tipo simpatico e strambo. Mi piaceva per quello. Parlammo di te. Ti riteneva una specie di genio. Se mai hai avuto un ammiratore, è lui. Ma a quanto pare, questo non ti ha impedito di perderlo. Ci scrivemmo qualche lettera in seguito, ma chissà dove sono finite. Questo è quanto. Ora, se non ti dispiace, devo tornare alle mie valigie.